街をね、 Allora, eravamo rimasti con l'attacco al nido di Defratarios al paesaggio di Taspok. Nell'attacco ricordiamo che Valerie, Mark e Daghi avevano avevano forato le tubature del gas che sono nel sottosuolo, nella rete fognaria di Nazaro 13, e avevano fatto esplodere il tutto. I due, ancora, mi sono portato avanti, mi sono portato avanti. Allora, andiamo, cioè, stanno forando i tubi del gas. Allora, i due non dicono una parola riferita a Marchetti, sono ripreoccupati ma allo stesso tempo anche molto eccitati per l'azione che stanno per compiere. Prima di morire volevo complimentarmi per l'attacco di Natale al Duomo. Non so chi era l'uomo vestito di nero elegante, ma quando l'ho saputo mi stavo ribaltando dalla branda a Carcelia. Eravamo i soliti tre, Valeria, aggiunge Mark. Tre? Non era una sola persona? No, eravamo in tre e tutti vestiti allo stesso modo. Anni e Mark, approfittando della messa della mattina, si erano nascosti nel Duomo e aspettavamo che portava che, di portare si aspettava di portare il dono a Bambi Gesù. Dopo aver messo il regalino sopra l'altare, un altro dito a portone, siamo andati via ognuno per una strada diversa. In questo modo è come se la persona entrata poco prima della mezzanotte nel Duomo all'uscita si sarebbe striplata. Tutto perché quella zona è strapiena di telecamere e quindi uscendo ognuno a distanza di qualche minuto ed andando ognuno in direzione diversa, avremmo fatto ammattire Navig. Allora i complimenti si striplano. Valeria abbraccia i suoi compagni e si lascia cadere in una grossa risata che in meno di 5 secondi coinvolge anche Mark e Taki. Andiamo su. I tre, dopo pochi minuti, sono alla distanza giusta per iniziare a forare i tubi. Mi raccomando, assicuratevi di non avere nemmeno l'orologio al quarzo, perché a finire arrostiti saremo noi. Valerie dà le ultime indicazioni ai suoi compagni. I tre iniziano a forare molto lentamente le tubature del gas e man mano che indietreggiano verso l'uscita, gli sbuffi di gas riempiono sempre di più il tunnel come se fosse una nebbia fittissima. Sembra filare tutto liscio. Quando sentono in lontananza gli allarmi dei Tarspok, che sentono sempre più forte l'odore del gas. Scappiamo su che ne abbiamo forati abbastanza per far saltare mezza rete fognaria. Valerie invita i suoi compagni che incuranti dei passi si avvicinano continuando a forare i tubi. I tre scappano e si avviano nella stessa direzione dove sono usciti Coram e le altre tre refrattarios. Sono a pochissimi metri dall'uscita ed Ashlyn gli tiene aperto il tombino mentre con la testa infilata sotto guarda i suoi tre amici scappare. Aki è il primo ad uscire, lo segue Mark mentre Valerie gli copre le spalle. All'improvviso, preso dalla rabbia cieca, un giovane Tarspok esplode un colpo di pistola contro Valerie. Il proiettile, forse, non ha nemmeno il tempo di raggiungere il refrattarios, che la sua scintilla innesca la trappola di gas. Una fiammata accecante, seguita da un grande botto, fa tremare la terra in superficie lungo tutta la rete sfognaria. Il villaggio dei Tarspok viene cancellato dal fuoco in pochissimi secondi e con esso tutta la popolazione che lo abitava. Valerie, ferito ad una caviglia da proiettile, ha mezzo corpo ustionato ed è quasi moribondo. Aki, che si era affacciato per aiutare il suo compagno a risalire alla svelta, ha il viso ustionato. Gli altri refrattarios prendono Valerie in braccio e lo portano lontano dal tombino, da cui sale un calore infernale. Mentre Aki è aiutato da Shelen che lo tiene sopra la spalla guidandolo perché il refrattario ha perso un occhio e l'altro è ustionato molto seriamente. Ho lasciato delle cose importanti accanto al tombino, andatele a prendere. Valerie, assente, riesce a parlare. Ashlyn e Atin si fiondano al tombino mentre Mark aiuta Rose a distendere anche Aki. Valerie schiocca le dita per attirare l'attenzione di Coram, gli strizza l'occhio, poi prende la pistola e si tira un proiettile direttamente alla testa. Il botto raggela le schiene di Atine e Ashlyn, che sono inginocchiate di spalle a Valerie, a cercare qualcosa che non c'è. Mark sobbalza mentre aiuta Aki e Rose, si porta le mani al viso, capendo al volo cosa era accaduto. Valerie giace al suolo in una pozza di sangue. In 2 giorni ci sono state 2 perdite importanti del gruppo di Refractaris e di un terzo gruppo formato di 3 ribelli se ne è perso traccia. Il villaggio Tarspok non è stato il solo ad essere cancellato dalla faccia della terra. Con esso è stata cancellata anche Carcelia, in modo definitivo, data che si sviluppava oltre il villaggio. La stessa Carcelia voleva violentata da Valerie pochi giorni prima, ed ora accompagnata oltre la porta dell'inferno dallo stesso Refractarios. Radiazione lunedì 6 ottobre, diretta d'azione come quella di tutti i lunedì che, in cui ci sarà la controinformazione ma soprattutto la lettura. La lettura abbiamo iniziato con Nazaro 13, abbiamo continuato con Nazaro 13 perché il brano appena ascoltato fa parte del CD che poi uscirà insieme al racconto, speriamo quanto prima. Uscirà, lo ricordo, tutto benefit per i compagni detenuti, torte le spese stavolta, perché le spese saranno qualcosa in più. E allora, dicevo, letture, stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergio Zupiatecki, siamo già arrivati alla quarta lettura per quest'anno, lo ricordo, è il primo libro che leggiamo per quanto riguarda la stagione 2014-2015 di Radiazione. Ricordiamo gli indirizzi utili, radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, materiale da diffondere attraverso il sito di Radiazione, o anche consigli per i prossimi libri da leggere su Radiazione, lo ricordo, libri di narrativa con tematiche affini. Speriamo che questa volta arriva qualche consiglio, altrimenti scegliamo noi, non c'è problema. Come abbiamo facilità sempre fatto fino adesso. Allora, dicevo, il sito di Radiazione è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast nella categoria Ascolta le dirette d'azione, dove nella pagina di download potete scaricare un po' di materiale che altri compagni mettono a disposizione. Ci sono libri, opuscoli, CD, insomma un po' di roba, manifesti. Insomma, dateci un'occhiata e vedete quello che volete scaricare, è tutto gratis, le idee non hanno prezzo. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ci ha aiutato in tutto e ci continua ad aiutare spesso, e ringraziamo sempre e salutiamo. Che dire, ora ci ascoltiamo un brano, ci ascoltiamo prima un brano, lei è Nina Hagen con il brano TV Closer, e poi dopo si torna qui e si parte subito con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. We'll be right back. Ich glotz TV. Sie glotz TV. Ich glotz TV. Sie glotz TV. Ich krieg ne Meise, weil na, ich fass kein Buch mehr an. Literatur hört mir übel. Und die Arztromane hab ich mit 12 schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belesen, ey. Und die Erfrischungswaffeln sind ausgelaufen. Drück, drück, drück. Und diese scheiß Schokolade macht einen fetter und fetter und fetter und fetter. Und doch, ich schalt die Glotze an. Happiness, flutsch, flutsch, von Glotz von Ost nach West zu Wind. Ich glotz TV. Ich glotz TV. Ich glotz TV. Ich glotz TV. Ich glotz TV. TV. TV. TV. TV. TV. TV. TV. Ich glotz TV. Dalle sonorità devastanti punk rock di Nina Hagen, sonorità che sono anche impudenti, torniamo alla lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, il primo libro di questa stagione 2014-2015 di Radio Azione. Per chi volesse il riassunto delle puntate precedenti, ricordiamo che prima della messa in onda del lunedì addirittura vi abbiamo questa volta fornito un montaggio delle ultime due parti lette lo scorso lunedì, in modo tale da farvi non solo mettere in ascolto un po' prima della diretta, ma anche per non complicarvi l'ascolto con le nostre parole, per chi le ha già sentite, per chi non le vuole risentire, ma si sente solo appunto quelle che noi in maniera un po' sarcastica chiamiamo le puntate precedenti. Ma adesso riscendiamo in quello che è la narrativa di Piasecki nel racconto di una società a illimitata impudenza. Baran sapeva leggere e sapeva leggere anche ciò che era stampato a caratteri cubitali, ma incontrava grandi difficoltà quando doveva decifrare dei caratteri più minuti. In tutta la sua vita non aveva letto neppure mezza pagina di libro e ogni volta che aveva fatto qualche tentativo in questo senso si era subito stancato e aveva piantato lì dopo poche frasi. Non aveva mai frequentato le scuole né gli era mai stato insegnato nulla da nessuno. aveva imparato da sé le lettere a stampatello, o piuttosto gli aveva insegnate la strada. Prima di tutto i manifesti e i cartelloni pubblicitari. Per esempio, sigarette Java. Queste cinque lettere le aveva apprese fin dalla sua infanzia e via via aveva apprese le altre dell'alfabeto, fermando la sua attenzione su qualche parola che la pubblicità murale gli metteva davanti agli occhi. E così aveva imparato la fonetica delle singole lettere che col tempo era poi riuscito a unire in sillabe e in parole. Quando Baram doveva assolutamente scrivere una lettera, come gli era successo varie volte trovandosi in carcere in una cella isolata e volendo comunicare con qualche collega, egli tracciava sulla carta delle lettere a stampatello. In tal modo gli riusciva con molta pazienza di mettere giù in poche frasi le notizie che voleva trasmettere. Quando usciva di casa e si avviava verso il centro, Baran comprava quasi sempre il giornale. Lo portava piegato in mano o se lo ficcava in tasca. E più tardi vi cercava con interesse i trafiletti di cronaca nera che descrivevano furti o altre imprese del genere. Se trovava qualcosa che fosse degno di particolare attenzione, come ad esempio la descrizione di un qualche suo lavoro o quello di un qualche suo collega, sillabava pazientemente l'articolo per decifrarne il contenuto. Oltre al desiderio di tenersi sempre al corrente delle gesta dei cavalieri del Grimaldello, lo spingeva a ciò un'antica abitudine. A suo tempo, Baran era stato un abile ladro di portafogli, o come dicevano i colleghi russi, passeggiava sul paravento. Questi specialisti eseguono il loro lavoro servendosi quasi sempre di qualcosa che mascheri le loro mosse come uno scudo. A questo scopo può servire il cappello, una sciarpa, un quadretto, un paio di guanti, secondo i gusti e l'abilità di ciascuno. Baran si era sempre servito del giornale. Ora aveva abbandonato da molto tempo quella specializzazione, ma continuava lo stesso a comprare il giornale per altre considerazioni. Uno che tiene in mano o in tasca il giornale desta meno sospetti di appartenere all'ordine cavalleresco del Grimaldello di uno che vada invece senza. Anche quel giorno Baran non mancò di fermarsi davanti a un'edicola in piazza della cattedrale, proseguendo poi verso il mercato basso. Sperava di trovare nel covo di Zipa Kasich Moretzky e di combinare con lui qualche nuovo colpo. Aveva infatti quasi già speso tutto ciò che possedeva per la sua nuova casa e non aveva avuto neppure il tempo di studiare qualche tiro maestro. Il covo della Zipa era un luogo dove si incontrava tutta l'aristocrazia ladresca della città di Minsk. Il covo era considerato il più sicuro nel suo genere perché Zipa era abilissima nell'ingraziarsi la polizia, sia quella in divisa che quella in borghese. Era sempre informata in tempo di ogni retata, del resto molto rara, che avrebbe potuto aver luogo e che poi talvolta effettivamente avveniva nei suoi locali, e così aveva la possibilità di avvertire e mettere in salvo i suoi clienti. Ma anche se la polizia avesse fatto irruzione improvvisamente nel covo di Zipa, il risultato di una perquisizione sarebbe stato completamente negativo. Il covo era sempre vigilato da pali che stazionavano nelle adiacenze e aveva certo nascondigli che, per scoprirli, si sarebbe dovuto ridurre addirittura in macerie la casa. Per gli uccelli di bosco, cioè per i ricercati, c'erano sempre delle vie di ritirata infallibili. Ogni affare non del tutto pulito poteva essere comodamente trattato da Zipa, che era pure in contatto con ricettatori di merce di ogni genere. Vi si poteva comprare un passaporto falso o dei dollari falsi, per 20 falsi se ne pagavano 6 veri, e vi si faceva anche traffico di cocaina e di morfina. Infine, si forniva al cliente che lo richiedesse qualsiasi strumento o arnese indispensabile per ogni genere di scasso o di furto. Senza uscire dal covo di Zipa potevano essere effettuati affari strettamente collegati con certi uffici della città che magari esistevano appunto per stroncare tali traffici illeciti. In poche parole, era la borsa di valori, l'ufficio informazione e di collocamento e anche il club dei ladri. Una scaletta di pietra conduceva dalla strada nel locale di Zipa. Sopra la porta c'era una vecchia e sbiadita insegna su cui ci si poteva appena distinguere la leggenda Casa del Tè, e in basso Zipa Buff. Un tempo era dipinta anche una bella teiera che ora era quasi del tutto scomparsa. Questa era Lydia Lunch con il brano Fields of Fire. Dopo la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiasiecki, e ora come di consueto passiamo alla controinformazione. Lo ricordo, una lettura, un paragrafo o una parte di paragrafo e una notizia di controinformazione. Diamo subito degli aggiornamenti sullo sciopero della fame e le iniziative in solidarietà con i compagni detenuti in Messico. Oggi proprio ho tradotto il testo preso dai compagni della Croce Nera Anarchica Messicana, testo che inizia con due citazioni. La prima è di José Tarrio, che dice: se mi chiedete cos'è il carcere, io risponderò senza esitare che è l'immondezzaio di un determinato progetto socio-economico dove buttano tutte quelle persone che danno fastidio all'interno della società. Per questo motivo il carcere è popolato per lo più dai poveri. L'altra citazione è di Harold Thompson, che dice: un movimento che dimentica i suoi prigionieri è condannato al fallimento. Dal 1 ottobre i compagni anarchici Jorge Maria González, Carlos López Chivo, Fernando Barcenas e Abraham Cortés in diverse carceri di Città del Messico sono in sciopero della fame. A 4 giorni dall'inizio dello sciopero invitiamo a dimostrare solidarietà con la lotta che stanno portando avanti i compagni, la lotta contro la società carceraria dall'interno del suo stesso cuore. Non abbiamo intenzione di farli passare come eroi, tantomeno di cadere in un discorso vittimistico. Siamo consapevoli che, nonostante la detenzione che li ha privati della libertà dei loro corpi, le loro idee e sogni di una società libera dal dominio e di sfruttamento restano liberi. La loro lotta è la nostra, noi rifiutiamo insieme a essi tutti i meccanismi di controllo e di dominio di questa società prigione. Siamo contro la prigione e con essa il sistema di cui fa parte. Per la riappropriazione delle nostre vite, giù le mura delle prigioni, liberi tutti. Poi ci sono gli aggiornamenti sui compagni, aggiornamenti sulla salute fisica dei compagni. Mario Gonzalez, che è detenuto a Torre Medica di Tepapan, finora fisicamente sta bene, a parte problemi al pancreas e fegato, stanchezza e piccole vertigini quando si alza in piedi, ma è motivato e tranquillo. È stato visitato 3 volte dai medici del carcere cercando di dimostrare che non è in sciopero della fame. Lo ripeto che gli scioperi della fame in carcere non sono ben visti dall'istituzione carceraria. Molte volte cercano di fermarlo in qualsiasi modo. Fernando Cortés e Abraham Barcenas Castillo, che rinchiusi al reclusorio Norte, entrambi sono nella sezione di entrata della prigione e vengono visitati 3 volte al giorno dai medici della prigione. Entrambi hanno avuto perdita di peso ed affaticamento, ma sono determinati. Infine Carlos López Marín, il Chivo, rinchiuso al reclusorio Oriente, è stato spostato dalla sezione comune in cui era detenuto alla sezione di entrata. Ha avuto debolezze e leggeri capogiri oltre ad una leggera perdita di peso, è portato 3 volte al giorno all'infermeria della prigione, ha ricevuto pressioni da parte delle guardie e altri prigionieri per porre fine allo sciopero, ma il compagno rimane determinato. Alla fine ci sono anche le iniziative che ci saranno in solidarietà alla Città del Messico. Martedì 7 ottobre presidio in solidarietà del Reclusorio Norte alle ore 14, domenica 12 ottobre corteo contro il carcere dalla Torre Medica di Tepepan al Reclusorio Oriente sempre alle ore 14. Questa era per quanto riguarda la prima notizia di controinformazione della giornata. Ora ci ascoltiamo un brano degli Information Society e SIC 300. Tessie 100, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasiecki. Treacherous. The sun is rising. The sun is rising. Baran entrò nello squallido locale dove lungo le pareti erano allineati alcuni tavolini e degli sgabelli verniciati di rosso. La sala era vuota come sempre. Era raro che vi capitasse un contadino ignaro delle caratteristiche locali o un borghesuccio i quali, con grande meraviglia dei padroni, chiedevano una tazza di tè, senza sapere che in quel locale, sebbene si chiamasse Casa del Tè, il tè non era mai stato servito. Oleg si avvicinò al lungo banco di fronte alla porta, dietro il quale sedeva la rossa Chana, sorella di Zipa, un'ebrea di eccezionale bellezza. I suoi capelli fulvi, ondulati per natura, erano raccolti sulla nuca in un voluminoso chignon e incorniciavano un volto pallido, dalle sopracciglia nerissime, la bocca purpurea, meravigliosa, e un paio di occhi splendenti. La Chana non era del tutto normale. Il suo fidanzato si era dato la morte col veleno pochi giorni prima delle nozze e da allora la ragazza manifestava segni di squilibrio mentale. Baran le chiese: «C'è qualcuno dei nostri?» Chana lo guardò a lungo in viso come se fissasse il vuoto davanti a sé e finalmente rispose con voce gutturale: «Sì». Baran si chinò e, passando sotto il banco, aprì la porta che si trovava alle spalle di Chana. Attraversò una stanza immersa nella penombra e infilò un lungo corridoio tutto svolte e ramificazioni. A un certo punto entrò in una vasta stanza nella quale si aprivano diverse porte. Il locale aveva un'apparenza estremamente sudicia. L'aria, prigna di umidità, puzzava di esalazioni di birra e di frittura di aglio. Bisognava esserci abituati per poterla respirare senza ribrezzo. Tre uomini sedevano a lungo tavolo coperto con una tela cerata e guardavano con occhi torvi la bottiglia di acquavite. Ormai era vuota. Uno di essi fumava una sigaretta, aspirando il fumo voluttuosamente e trattenendolo a lungo nei polmoni. Baran salutò gli astanti, suscitando tra loro col proprio arrivo una certa animazione. Perché allora non ti sei fatto vivo, eh?» gli chiese Filippo il calvo, sbadigliando e grattandosi la testa che aveva conservato un po' di capelli appena sulle tempie e sulla nuca. «Beh, perché non potevo, ho avuto altro da fare.» Filippo annuì col capo e, sbadigliando di nuovo, disse: «Casica teso fino alle 3 di notte. Ebbene, non è venuto oggi.» «Sì, sì, però è andato con Gianni per un certo affare. Dovrebbero ritornare a momenti. Dicevano che era un lavoro a colpo sicuro e così via.» E sbadigliò ancora. Era sua abitudine, ed egli la riteneva di buon gusto, e introduceva il suo e così via dappertutto, senza badare se il senso della frase lo consentisse. Filippo il Calvo si vestiva con ricercatezza e sfoggiava molto spesso abiti nuovi di buon taglio. Una cosa che lo umiliava molto era la sua quasi completa calvizie. Non c'era lozione che egli non usasse nel vano tentativo di combatterla. I ragazzi erano a conoscenza di questa sua debolezza, con tutto il rispetto per il lato di alta classe, e lo prendevano bonariamente in giro, consigliando i farmaci più impensati per far rivivere le chiome ondulate che una volta costituivano tutto il suo orgoglio. Filippo era alquanto buffo di aspetto, alto, calvo, con un lunghissimo naso rubicondo sulla punta e una perenne smorfia di disgusto sulla bocca che dava l'impressione che avesse appena ingoiato un'oncia di olio di ricino. Gli occhi slavati e spenti, come se fossero stati messi nella lascivia, erano leggermente sporgenti, il che conferiva loro un'espressione ebede, cosa strana. Filippo piaceva alle donne ed egli le conquistava con relativa facilità, non per i regali che faceva loro, ma proprio perché si innamoravano di lui. Era, come Baran, un lato d'appartamenti, ma all'occorrenza non disdegnava le altre specialità. Insomma, era uno di quegli individui versatili che nel mondo della malavita di Minsk veniva definito come un ladro tuttofare. Un altro dei tre compari che si trovavano in quella stanza era un ometto basso di statura, non più giovane, ma di età indefinibile. Aveva un volto grigio che pareva di gomma. Sì, aveva quasi voglia di afferrargli un orecchio e tirarglielo giù verso il naso, sicuri che l'avrebbe raggiunto. Rideva senza mettere il minimo suono e stirando la bocca da tutti i due i lati, mentre il naso faceva un tuffo verso il basso. Lavorava bene, ma aveva poco cavicchio. A volte, benché di rado, gli capitava di azzeccarne una buona, ma in compenso si faceva spesso beccare sul fatto e allora, per un tempo più o meno lungo, spariva dalla circolazione. lo chiamavano professore per una sua strana predilezione per le frasi ed espressioni ricercate. In questo somigliava a Stash, il cocchiere, e Baran, ascoltando ognuno dei due separatamente, pensava: una volta bisognerebbe farli trovare insieme e dar loro da bere, sarebbe davvero uno spasso. A Varsavia, che era la patria del professore, lo chiamavano il Gallo, forse per la piccola statura o per il fatto di portare la testa sempre un po' gettata all'indietro e per il curioso modo di pettinarsi, coi capelli che partivano dalle tempie e andavano a congiungersi sul cucuzzolo, proprio come la cresta di un gallo. Il terzo presente, Glista, era un ladro notturno d'appartamenti, nel suo genere era senza dubbio il miglior specialista della città. Parlava piano, misteriosamente, quasi mormorando, ma sempre con molte esagerazioni. Avevo una crapa, sai, come un barile. Potessi morire, se non è vero. E anche il suo aspetto era insolito, ossuto, stecchito, lungo e asciutto come un palo. Quando camminava si chinava goffamente sui fianchi, avanti e indietro. Sembrava un metro snodabile. Guardandolo attraversare una stanza sembrava impossibile che vi riuscisse senza rovesciare le sedie, il tavolo e persino la stufa e l'armadio. Come poteva essere un abile ladro notturno costui? Appena sopraggiunta la notte, Glista subiva una completa metamorfosi. La sua andatura acquistava sicurezza ed elasticità, i suoi movimenti diventavano precisi e rapidi, l'espressione di ottusità scompariva dai suoi occhi. Lavorando in piena notte in un appartamento sconosciuto dove non era mai stato prima, circondato da gente che dormiva, Glista si muoveva con una calma e una destrezza incomparabili. Fact it. realtà. E questi erano Bennett's Propaganda in Duke B con il brano Fact. Ora ripassiamo alla controinformazione. Si ripassa alla controinformazione sempre andando in Messico, perché sulla rivista anarchica Negación c'è un editoriale in cui tira in ballo l'anonimato per l'ennesima volta, e tira in ballo anche qualche testo, anche riportandolo e pubblicarlo, tra cui quello di Radiazione, proprio in risposta all'anonimato. Allora, leggiamo prima il testo scritto dai compagni messicani. L'espressione ai ferri corti con si usa per indicare un punto di non ritorno, di rottura imminente e violenta con qualcosa o qualcuno. Con ferri corti ci si riferisce alle armi bianche, senza esse siano esse le daghe o i pugnali, che segnano l'ultima tappa del tipico duello dei secoli passati. Il combattimento armi in pugno si svolgeva in corpo a corpo, faccia a faccia, per rompere con questa realtà, in un duello mortale con l'esistente, i suoi difensori e i suoi falsi critici. Ai ferri corti con la vita. In seguito alla pubblicazione di diversi scritti sul web riguardante l'attuale dibattito quasi abortito, come specifica bene uno di questi testi, a proposito dell'anonimato, le rivendicazioni, le sigle e l'attacco, scritti che non sono stati tradotti o diffusi largamente, abbiamo preso l'iniziativa di tradurne alcuni. A dirla tutta, abbiamo voluto tradurre i tre testi più polemici secondo alcuni compagni, ovviamente, ma soffermandoci sul terzo, che si intitola Appendici ad un dibattito abortito sull'anonimato e l'attacco. Notiamo che contiene una sintesi dei due testi precedenti e che in più, secondo noi, ovviamente, si esprime con meno arroganza rispetto al primo, cosa che può facilitare un'apertura verso un vero dibattito tra compagni e compagni anarchici sui temi sopra evocati. Abbiamo quindi scelto di concentrarci sulla traduzione di quest'ultimo scritto. Condividiamo di più il testo in questione perché afferma il rifiuto da parte di non pochi compagni di discutere con chiarezza ed umiltà su questi punti, mentre d'altro canto la facile evasione da questo dibattito è sempre stata la risposta da parte di alcuni, in pratica da parte dei più noti. Nel nostro ultimo editoriale facevamo riferimento al fatto che studiamo sul genere di argomentazione ad hominem, una scappatoia presentata come argomento al fine di chiudere e nel contempo attaccare squalificandoli gli argomenti sostenuti. Un argomento ad hominem in tal senso viene utilizzato da certi compagni e compagni nel respingere l'invito al dibattito, argomentandolo che tutte queste critiche e riflessioni a proposito di sigle, cellule, ottamatismo, rivendicazioni, eccetera, provengono da quelli che predicano l'anonimato politico senza far nulla e o che sono formulate sedute comodamente dietro ad un computer. Quest'ultima premessa fa sorgere parecchi dubbi in noi, alcuni più semplici e altri più complessi. Per esempio, non riusciamo a comprendere come facciano questi compagni ad affermare con tanta certezza che quelli che predicano l'anonimato non fanno niente. Bisogna ricorrere alla politica come arte e alla rappresentazione per far rimarcare che si sta facendo qualcosa? Bisogna affidarsi alla visibilità spettacolare per dimostrare che si è fatto qualcosa? Bisogna dimostrare qualcosa attraverso la visibilità di certe azioni affinché perfino una critica da parte di compagni acrati sia considerata valida? Dimostrare a chi? O forse i soli che fanno qualcosa e la cui parola quindi credibilità sono quelli che si rendono visibili attraverso sigle, comunicati e dichiarazioni di principio? Che cosa sarebbe questo fare contrapposto a quel non fare? Il genere di organizzazione che costoro propongono, per di più in modo acritico, non è per caso una ridondanza alla vecchia forma organizzativa di sintesi pesante e avanguardista che tanti anarchici hanno criticato nel corso degli anni e che noi stessi abbiamo criticato? Tutto ciò, permetteteci, puzza di monopolio, di omogeneità, di caudilismo ed è l'opposto di una pratica informale. Un altro di questi dubbi emerge sulla base di rappresentanza come sinonimo di visibilità. Posto che con tutta questa pratica contro l'informalità, la tendenza informale anarchica, come è stata formulata da alcuni compagni e compagne, ha fatto ricorso in mille ed una occasioni alla politica come arte della rappresentanza, se la rappresentanza è ciò che toglie agli individui la capacità di agire, fornendo loro come contropartita l'illusione di essere partecipanti e non spettatori. Questa dimensione del politico riappare sempre laddove una qualsiasi organizzazione soppianta i singoli e qualsiasi programma li mantiene nella passività. Riappare sempre laddove un'ideologia unisce ciò che nella vita è separato. Questo non è proprio un'altra maniera di fare politica? Poi io penso che è una citazione da qualche testo. Un dibattito di questo tipo non nasce, o almeno così dovrebbe essere secondo noi, da una questione di genere né da una questione personale. Un dibattito come quello in corso nasce dalla necessità di discutere di idee, posizioni, prospettive, teorie per un arricchimento individuale e uno sviluppo della lotta stessa. Allora, questo è il testo di Compagni Anarchici di Negación sulla loro rivista in Messico, in cui in una frase citano anche lo scritto di Radiazione, e io rispondo molto sinteticamente: ma farsi i propri cazzi, no, eh? E questo è riferito alle domande. E poi ribadisco il mio pensiero: dato che si è tirato in ballo, chi fa l'azione decide come farla e se rivendicarla con un testo, una sigla o altra. Chi fa l'azione rischia in primis sulla propria pelle e propria libertà. Di discussione su perché alcuni compagni non sono per l'anonimato ne sono avvenute, ma ovviamente si fa finta di non leggerle e non vengono pubblicate da parte di chi è a favore dell'anonimato. Uno degli ultimi esempi è sul voler nascondere la discussione data dall'intervista dei compagni delle CCF a Compagni Anarchico Alfredo Cosmito. Detto questo, ho detto tutto. Vabbè, è inutile dilungarci in questa discussione, perché quello che ci avevo da dire io l'ho detto in una risposta allo scritto apparso sul sito di Contrainfo, che penso che siano i redattori di tale scritto, perché non c'era firma, non c'era provenienza, quindi automaticamente si pensa che siano loro i redattori del testo. Anche in precedenza c'erano state delle discussioni, però ovviamente da parte di chi è per l'anonimato non sono mai stati pubblicati sui propri siti o sui propri giornali, quindi sembra un po' contraddittorio dire che dall'altra parte è stato chiuso l'argomento c'è stato, è stato portato avanti, e per chi vuole leggerlo, anche perché è scritto da una mano che comunque ha rivendicato un attacco, quello ad Adinolfi, con tanto di dichiarazioni in aula e tanto di gruppo, sigla, acronimo, lo può leggere su Radiazione. Basta andare sulla pagina di Edizioni Radiazioni e c'è l'opuscolo fatto con l'intervista a Compagno Alfredo Cosmito, fatta dalle CCF. Ora ci ascoltiamo un brano, anche perché mi si sta seccando la gola. Loro sono Circle of Dust, il brano Exploration, e poi si torna qui con Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. We'll be right back. Baran offrì a tutti delle sigarette mentre ne accendeva una egli stesso e vide sul tavolo in mezzo agli avanzi del pane un libro. Presolo in mano si lavò adagio, molto adagio, aritmetica. Poi lo sfogliò e guardando il professore borbottò: e beh, che roba è questa? Coprendosi la bocca con la mano e inarcando le sopracciglia, il professore rispose: l'aritmetica è una scienza, come per esempio la geografia, solo che la geografia serve piuttosto ai conducenti di treni e ai viaggiatori, mentre questa è utile ai commercianti. Perché imbroglino meglio il prossimo, si intromise Filippo il Calvo. Eh già, è utile però anche agli astronomi per sapere che tempo farà, continuò nella sua prolusione il professore. Questa discussione scientifica sarebbe forse durata ancora a lungo se non fosse entrata la zipa. Se la rossa Ciana era indiscutibilmente una bellissima figliola, la zipa, sua sorella, appena di pochi anni e più vecchia, era addirittura la bruttezza in persona. Prima di tutto era disordinata e sporca, aveva sempre il vestito unto e bisunto. Sotto la gonna le spuntavano spesso le mutande, il suo volto era ossuto e grigio, deforme, le labbra livide, non aveva sopracciglia e le sue palpebre arrossate riparavano due occhietti mobilissimi dal bianco tutto intersecato da vasi sanguigni. I capelli erano di uno strano color cenere. Zipa si abbassò e si avvicinò a Baran e socchiudendo con intenzione un occhio disse con fare misterioso: «E beh, che cosa mi racconta, signor Olek?» «Si vive», rispose Baran. «Portaci due bottiglie di vodka, ma di quella buona, quella anteguerra, hai capito? Niente imbrogli, mi raccomando, visto che ci sei, anche qualcosa da mangiare». «Ah, c'è del luccio freddo alla giudia. E vada per il luccio, e anche delle paste squisite, portacele!» La zipa non era ancora uscito quando la porta si aprì e due uomini entrarono nella saletta. Uno di essi, dalla figura magra e allampanata, era il famoso ladro varsaviano, Gian Dente d'Oro. Quella capsula d'oro era stata già da molto tempo, per ragioni precauzionali, sostituita da un dente di porcellana, ma a Gian era rimasto ugualmente quel nomignolo. L'altro nuovo venuto era di statura media e aveva un volto così regolare da rasentare la banalità. L'unica cosa che attirava l'attenzione erano le orecchie, piccole e bellissime, simili a quelle di una donna. Il suo nome era Kazik Morezki e apparteneva alla Mala di Vilna. E un tempo era stato collega di Baran, suo compagno di lavoro e di galera. Parlando ripeteva spesso: «quel tale». Per lui, come per Zardon il berretto, la giubba era l'indice infallibile del suo umore. Se era sbottonata e Kazik aveva le mani in tasca, le cose andavano a gonfie vele, il colpo era riuscito e Kazik ne era soddisfatto. Se, invece, la giubba era tutta abbottonata, allora quello era un brutto giorno, aveva fastidi fin sopra i capelli e fiutava il pericolo. Gian Dente d'Oro, invece, non possedeva nessun barometro, era sempre di buon umore lui. Il suo detto preferito era: «Frank, non fare vento!» Appena i due furono entrati, Baran gridò a Zipa: «Aggiungi ancora un bicchiere e un piatto!» Kazik Morezki diede a Baran le ultime notizie da Vilna. «Niente da fare laggiù, caro mio, sono tutti morti di fame e vanno vestiti a brandelli. Negli ultimi mesi c'è stato sì qualche miglioramento, ma io ero tenuto d'occhio e non potevo rischiare a fare niente, allora pensai, beh, qui la va male, se ci pescano ancora è la volta che tiro le cuoia in carcere. Perciò feci un ultimo colpo in un negozio di stoffe, pigliai i miei arnesi e me ne venni qui a Minsk». I bicchieri di vodka si vuotavano appena riempiti. Gian, con gesti teatrali, smorfie misteriose, raccontava al professore una sua recente riuscitissima impresa e quest'ultimo fingeva di ascoltare attentamente, ma era chiaro che stava pensando ad altro. «Dunque, arrivo lì, capisci?» E scasso la porta col grimaldello, entro e non ti dico che roba, un castello. Oro dappertutto, neanche a pensare di caricarsi l'argenteria, troppo pesante per un uomo solo. Arraffo dunque i preziosi e via. e ho fatto fatica a portar via tutto quel ben di Satana. Eh sì, amico mio, erano bei tempi quelli. Nessuno si curava di avere il cappotto bello di sopra, poteva costare anche 50 rubli, ma sotto c'erano almeno 5 pezzi da 1000. Baran parlava con Kasik, ascoltando con orecchio distratto anche la tiritera di Gian. Era preso da una sorda irritazione contro quel fanfarone, che poi altro non era che un tagliaborse qualsiasi, ma il vero ladro professionale. E a chi credeva di darla a intendere? A un merlo, forse? Durante una pausa della conversazione, l'attenzione di tutti fu attirata da Glista, che, senza rivolgersi a nessuno in particolare, disse lentamente, come se parlasse tra sé e sé: io, sapete, ho avuto un sogno. Una gallina aveva fatto un uomo. Non un uomo, un uomo. Si allontanò, lo guardò e si leccò il becco con la lingua. E che cosa mai può significare? Scempiaggini, disse Filippo. Certo che sono scempiaggini, confermò il professore. Ma non è un caso impossibile per chi si intenda di zoologia. Tutti tacquero guardando il professore, che assunse un'aria modesta, come se volesse dire: aspettate che vi farò ben vedere che cos'altro so io. Hai un covo sicuro? Chiese Baran, continuando la conversazione con Kasik. Mica tanto, il posto sì, allegro, ma quanto a sicurezza? Non mi sento troppo tranquillo, mi meraviglio anzi che non li abbiano ancora sbattuti dentro tutti quanti. Ieri, per esempio, arrivo, il grammofono urla squarciagola, le bottiglie e i bicchieri tintinnano, sulla tavola c'è una magnifica oca arrosto e sul divano letto la maruscia con le gambe larghe. Che ti dico io, era un paradiso, ma vivere così vuol dire farsi beccare, senza dubbio, un giorno o l'altro. Baran restò pensoso per qualche istante e poi disse: se vuoi posso indicartene un altro di covo. È comodo e assolutamente sicuro, pensava all'alloggio di Caterina Sperda, che aveva lasciato da poco. Oh, Benone, qua la zampa, fece Kasik, tendendogli la destra, tutto contento. Si strinsero la mano forte. Beh, e hai della roba da portarci? Chiese Baran. Qualche cosuccia. Beh, allora manderò il cittadino a prenderla, in un batter d'occhio è fatto. E poi andremo tutte e due alla Komarovka. Uscì dalla stanza e, trovata la zipa, le ordinò di mandare a cercare il cittadino. Questi, il cittadino, era appartenuto ad una buona famiglia decaduta con la rivoluzione. Aveva posseduto delle case a Orel e anche un'officina, ma poi era fuggito abbandonando tutto ai bolscevichi. A Minsk bazzicava i bassi fondi e faceva da intermediario nelle compravendite che si effettuavano al mercato. Scriveva inoltre per i ladri lettere e biglietti e, a furia di frequentarli, li aveva presi in simpatia. Lui si poteva sempre trovare al mercato basso o in uno dei covi situati nelle adiacenze. Ai ladri, a dir la verità, stava un po' sullo stomaco, perché era un intellettuale, ma in fondo apprezzavano i suoi modi cortesi e la sua educazione. Spesso lo prendevano anche in giro, ma nessuno gli avrebbe mai torto un capello. Il mondo dei delinquenti in mezzo al quale il cittadino si era improvvisamente trovato lo spaventò dapprima, ma poi finì per suscitare in lui un profondo interesse. Si accorse che esso era governato da leggi non prive di una loro logica, anche se apparentemente caotiche, che anche i delinquenti vivevano secondo un'etica le cui regole non possono essere trasgredite impunemente, che quel mondo di traviati aveva una sua tradizione, un suo costume, una sua morale. Trovò tra delinquenti degli uomini originali, dotati di una personalità spiccata, di una eccezionale forza di volontà e di una non comune intelligenza. Lo meravigliava il fatto che, pur non avendo ricevuto alcuna istruzione e trovandosi perciò sullo stesso piano culturale dei bambini, sapessero spiegare nella vita tanta intelligenza e talora tanta genialità. I ladri, ad esempio, erano quasi infallibili nel classificare ogni singola persona in mezzo ad una folla. Sapevano distinguere la spia, il merlo, l'agente in borghese e ovviamente il ladro. Per ogni loro uomo pareva avesse appesa al collo un'etichetta che dichiarava il suo io più segreto e la sua posizione sociale. L'abilità dei ladri e la loro prontezza nel prendere le decisioni e nel metterle in atto lo sbalordivano. Spesso Lo divertivano le fanfaronate e il sussiego di quella gente, ma doveva ammettere che questi tratti accrescivano piuttosto il loro fascino, anziché apparire come difetti. Ma più di tutto era stato colpito dalla serietà della loro parola. Il cittadino venne mandato a chiamare da uno dei figli di Zipa, che coi fratelli faceva da palo e ai cui occhi nulla sfuggiva. Egli, spaventosamente sporco e sciupato, e con l'altra torcendosi un baffo, e con l'altra mano si aggiustava il colletto. Aveva più di 50 anni e il suo volto aveva dei tratti non volgari, anche se tipici di un avvinazzato. Salutò tutti con un cenno della testa e poi tese la mano a Baran. «Hai qualcosa per me?» «Te lo dirò subito», disse Baran, «ma ora siediti e prendi un bicchierino». Is inconsistency. If a man sits down to play the tuba and the sound of a piccolo emerges, it's ludicrous. Sound of a piccolo emerges, it's ludicrous. Likewise, the little man with the big foghorn voice seems ill-suited. Foghorn voice seems ill-suited. Yes, this is your plump little woman coming forth with husky. It was not your style. E questi erano gli Instance con il brano Treason Works. Ora si ripassa alla controinformazione con un testo tradotto da compagni di Croce Nera Anarchica che mi fanno avere, che sarebbe la dichiarazione dell'anarchico Antonis Stambulos detenuto nella questura di Atene. Leggiamo il testo del compagno. Il 1 ottobre 2014 sono stato arrestato, incappucciato e portato in una stanza per gli interrogatori dell'unità antiterrorista. Dalle 5 del pomeriggio fino a 1 di notte un gruppo di poliziotti incappucciati, mentre ero ammanettato dietro la schiena, ha preso i miei campioni di DNA, impronte digitali e ha cercato di prendere le mie fotografie con la forza, tra ironie, tentative di soffocamento, distorsioni e percosse, e ha minacciato di farmi un elettroshock pensando che questo mi avrebbe fatto collaborare. A 1 ho visto i poliziotti senza cappuccio per la prima volta, che mi hanno detto che sono accusato di terrorismo. Fino alle 5.30 del mattino sono rimasto in una cella 1x3, sempre ammanettato dietro la schiena, e il giorno dopo hanno tentato di fotografarmi ancora una volta. Da parte mia mi sono astenuto dal cibo e l'acqua fin dal primo momento e ho chiesto di parlare con un avvocato. Dopo 24 ore di detenzione alla fine mi hanno permesso di nominare un avvocato e sono riuscito ad incontrarlo solo per pochi minuti prima di essere portato dal pubblico ministero. Condivido quanto sopra con gli altri combattenti come una piccola esperienza di lotta. Sia che l'atteggiamento dello Stato verso di noi possa essere lieve o severo, dipende sempre dalle circostanze, non potrà mai piegarci nei momenti dell'avversità, fin quando saremo consapevoli della responsabilità che deriva dalla nostra posizione di anarchici. Tempi duri nella lotta sono quelli che ci fanno temperare con una forte coscienza. In queste circostanze ciascuno di noi sostiene gli ideali della società per la cui costruzione stiamo combattendo. Tanto sangue è stato versato nella lotta per l'emancipazione della società classista e quindi solo gli sciocchi possono aspettarsi che ci pieghiamo di fronte a qualsiasi bullismo dei poliziotti. Ho tenuto un atteggiamento negativo nei confronti degli sforzi della CHE di Stato per associarmi i miei dati personali per due motivi. In primo luogo per la stima dei miei valori, visto che credo che ogni rivoluzionario anarchico non dovrebbe dare neanche un pollice di terreno a nemico di classe. E in secondo luogo perché ero consapevole della gravità del caso in cui sono implicato. Così ho voluto proteggere il mio ambiente cameratesco e amicale dai corvi che mi tengono prigioniero. Mentre Clouseau, che non si capisce cos'è, anche i compagni di Croce Nera hanno lasciato il termine così, non erano in grado di trovare il mio nome, non era affatto disposto a fornirglielo. Al momento in cui sto scrivendo, due giorni dopo l'arresto, la polizia mi ha finalmente identificato. È chiaro che gli ufficiali della squadra antiterrorismo e in particolare i loro superiori politici speravano di fare uno scoop del mio arresto. Da qui le divulgazioni per la stampa riguardante il notebook contenente percorsi precisamente cronometrati, obiettivi, biciclette e salsicce. Incluso sono qualche personaggio di commissario di qualche penso serie più Clouseau, forse in francese può arrivare da Clouseau. È un nome di un qualche adesso sì. Non mi ricordo quale serie di questi giallisti. Ispettori. Ecco. Hanno imbastito la loro storia per adattarla al loro scenario, uno scenario che alla fine deve sempre farli uscire vincitori. La polizia e i pubblici ministeri non hanno alcun diritto a sapere quello che ho fatto, chi sono e perché io ero nel luogo dove sono stato catturato. Non è realmente la loro preoccupazione, ma la mia. Pertanto non ho bisogno di offrire spiegazioni ai guardiani della legalità borghese, ma solo al movimento rivoluzionario, ai compagni e alle persone che non scelgono di vivere come schiavi. Considero questa prima comunicazione che un mondo esterno necessaria, dato che non ho illusione di non essere mandato in carcerazione preventiva. Per ora sono tenuto prigioniero nelle mani dei servi del capitale, ma il mio cuore appartiene ancora al campo della rivoluzione. La lotta continua, viva la rivoluzione, lunga vita all'anarchia. Antonis Stambulos, e poi per chi vuole scrivere al compagno c'è l'indirizzo sotto l'articolo pubblicato su Radiazione. Poi c'è una nota: mentre il compagno, che è stato arrestato nel distretto di Virona, Atene, non era ancora stato identificato, il capo della polizia ha affermato pubblicamente che una delle scoperte più sorprendenti erano appunti manoscritti ritenuti parole in codice per esplosivi. Vabbè, queste sono sempre parole degli sbirri. Allora, ora ci ascoltiamo un brano. Lei è Anin Elias, la ex cantante degli Eteri Teenage Riot. Il brano è Under Pressure, così si collega al testo appena letto, e poi dopo si torna qui con una discussione sulla... di riflessione, una provocazione, una discussione. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Your face is deep under pressure. Allora, ripetiamo, questa era Anin Elias con il brano Under Pressure. Abbiamo detto che invece di tornare subito sulla lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki, volevamo fare due chiacchiere sul corteo. Due chiacchiere, anche una riflessione, insomma, noi sì. Non ci sentiamo superiori a nessuno, ma neanche inferiori, no, diciamo. No, ovviamente noi si dice la nostra, quindi questo è, non c'è da né insegnare, insomma, né tantomeno dire che la nostra sia la verità assoluta. Ah, insomma, nessuno è infallibile. Chi crede chi nel crede cane pensa dell'infallibilità sì. Sua, ma noi ci crediamo. Quindi ne avevo già accennato con una cosa un pochino più ironica nella diretta di venerdì di questo corteo che c'è stato giovedì scorso, a Napoli contro la BCE, io ho detto, l'ho fatto passare come una pagliacciata, perché per me tale si tratta, organizzata da un gruppo che nemmeno tanto non istituzionale, è istituzionale come gruppo politico, i disobbedienti, a cui si sono aggregate poi altre forme di lotta. Sì, altre forme di lotta, insomma, sui disobbedienti penso che ci sia ben poco da dire, per quello che se ne pensa a Radio Azione, per quello che se ne pensa in taluni altri ambienti. C'era, diciamo, anche una presenza, diciamo, affine, interessante, all'interno di questo corteo, di cui innanzitutto siamo un po', criticare, diciamola così, anche la scelta di come, del percorso che si è voluto fare, che vivendo in questa città, conoscendo molto bene questa città, conoscendo molto bene qual era quell'obiettivo, e fra parentesi ci uniamo, Radiazione, diciamo, si unisce nel non essere d'accordo nell'andare contro un qualcosa un giorno all'anno e dimenticarsi tutti gli altri giorni, sì. E di provare poi a fare qualche cosa poi a favore di telecamere, che erano tante, troppe, sempre troppe. Sempre la domanda è perché si tollerano. In più sono state sperimentate per la prima volta le telecamere indossabili dalle guardie, con l'emendamento insieme alla pistola taser, che però non è stata usata. E poi, sapendo bene, come anche si sottolineava nella scorsa diretta di venerdì, che le telecamere ci sono sempre state, e adesso sono una paraculata loro che lo dichiarano, perché noi non siamo neanche d'accordo che si mettono i numeri le guardie, perché tanto quello sono e quello saranno, non sarà. Vabbè, quello è per un riconoscimento tra di loro, ovviamente possono mettere il nome, perché sarebbero adesso raggiungibili, non momento irraggiungibili. No, ma poi soprattutto tutti, dalla BCE alla singola guardia, diciamo, che ben si sanno, sono raggiungibili, anzi devono temere di essere raggiungibili 365 giorni all'anno e 365 notti all'anno, e questo è un po' lo scopo anche per cui noi si fa un certo tipo di ragionamento, di operazione anche politica, che sta nella controinformazione, sta nel fare le nostre dirette radiofoniche in radio, ma soprattutto una riflessione che vorremmo porre poi anche a chi ci ascolta o chi ci ascolterà in podcast è che cosa significa poi lo stare in strada in queste situazioni, che tipo di ruolo si vuole portare avanti, perché noi, insomma, non ci sottraiamo a coloro che dicono che il caos ci piace, che le rivolte, le insurrezioni, per quanto momentanee, possono avere una loro fondatezza. Chiamiamolo per essere rivolte di strada, insurrezione è una parola un pochino sì, più grossa. No, riot, sì, okay, mettiamoci d'accordo, sì, utilizzando una parola inglese. Appunto, qual è poi la posizione, che una serie di affinità con cui noi in qualche modo ci riconosciamo anche, cerchiamo, abbiamo una vicinanza, abbiamo un rispetto soprattutto. Perché a un certo punto andare a legittimare una certa idea che di azione in strada, di stare in strada, che sostanzialmente poi è stata un po' anche ridicolizzata da quelle che sono state le forze dell'ordine, che finalmente, che però si vede che hanno imparato a usare le nuove tecniche dell'idrante, se lo sono imparati a usare. Ora non lo sparano più in cielo, non lo come a Genova. Più in cielo, hanno visto, e soprattutto anche di magari in futuro, non in occasione di vertice, non in occasione di appuntamenti, ma di ragionare molto bene che l'organizzazione non sempre, diciamo, mortifica gli individui, ma l'organizzazione degli individui, non gli individui che si organizzano, no? L'organizzazione degli individui consapevoli, che quindi gli individui a fare l'organizzazione, non l'organizzazione a fare gli individui, possono fare dei ragionamenti per complicare molto più le cose, di cose che assolutamente poi ci vengono contrabbandate, in questo caso come semplici, come a favore di qualcuno, come a mettere a rischio, perché trovarsi in una situazione come quella che c'è stata giovedì a Napoli, in cui ci si trovava poi tutto sommato in balia di decisioni altrui, non solo delle guardie che diciamo, piange il cuore a dire che non hanno insistito nella loro opera repressiva, ma si sono accontentate di un'opera di dissuasione, maledetti loro, nel senso che snaturano anche un po' la loro natura, diciamo. Sì, vabbè, fortunatamente, perché poi là la situazione sarebbe degenerata, perché poi alla fine comunque era sempre il piccolo gruppo e poi che aveva organizzato la pagliacciata, e poi era un luogo con molto i primi film di scontri, e poi dopo ci vanno di sotto le persone. E quando queste cose vengono realizzate in luoghi del tutto inappropriati, diciamoci la verità, perché trovarsi su una sorta di svincolo autostradale su cui da un lato c'è il muro, dall'altro lato c'è uno strapiombo e davanti e dietro sei coperto dalle guardie, puoi pigliare tutte le precauzioni che vuoi, ma difficilmente. Il discorso secondo me è sempre il solito, quello che comunque pure in testi vecchi filmati anche dal sottoscritto, è quello di queste ricorrenze, queste chiamate fatte non tanto da chi si dice contro, perché poi chi si dice contro c'è da vedere chi si dice contro, ma vengono fatte per l'appunto da queste, dalle organizzazioni tipo la BCE, tipo il G8, l'OCSE, i vari vertici. Loro chiamano volontariamente questi vertici, lo fanno sapere a tutti, cosa che una volta non accadeva. A volte accadeva che prima accadeva che il vertice c'era nella tua città, nel palazzo a fianco, e tu non sapevi niente, al limite vedevi le auto blu, le scorte, però non sapevi che era avvenuto il vertice. Invece poi dopo Seattle hanno preso questa mano che poi si era persa un po' negli anni, era un po' fallita come cosa, e hanno imparato bene a far sì in modo tale che in un vertice in cui poi loro sostanzialmente, dopo che dicono che okay, la crisi c'è, non si ferma, la pagheranno comunque tutti gli altri, però lasciano poi il campo a una forma di dissenso molto spettacolare, nel senso di errore del termine, per dire che ci sono anche loro. Vabbè, noi quello serve di contorno allo spettacolino, serve il balletto intorno allo spettacolo, intorno all'evento. E sanno che comunque da parte di alcuni questo invito è accettato, specialmente da parte di disobbedienti, che comunque dopo il G8 di Genova, dopo anche qualche vertice avvenuto dopo Genova, avevano perso la loro credibilità, anche se per me e per tanti altri non l'avessero mai avuta, avevano perso la loro credibilità proprio perché molti di loro, specialmente i capi, ricordo Casarini, Caruso, Agnoletto, si erano presentati alle elezioni, garantiti uno stipendio e si erano andati a garantirlo ai loro, a fare i portaborse, sedendosi accanto a gente che dalla questura di Genova ha dato l'ordine di sparare sui manifestanti e ammazzare pure Carlo Giuliani. A quel punto Carlo Giuliani, che per loro è stata la vittima, è stato il manifesto per cui loro cercavano di tornare in voca. E comunque ricordiamo sempre che Carlo Giuliani appunto non è semplicemente un simbolo di chi se l'è poi arrogato a sé, ma è un singolo di un compagno che è morto. Ma con un proiettile direi nemmeno tanto un compagno, no, comunque era una persona che comunque gli giravano le palle in quel momento, è sceso in strada. Era l'attacco, era uno di quelli che, come diceva Tarrio nella frase, che dava fastidio alla società, e quindi purtroppo si è trovato nella situazione sbagliata, ma ci si poteva trovare chiunque, ed è stato ammazzato. Poi ricordiamo, diciamo, in chiusura, perché poi magari siamo andati anche oltre, che le stesse componenti politiche sono quelle componenti che nella giornata del 15 ottobre di qualche anno fa a Roma decisero, a fronte di scontri già iniziati e già sostenuti da quella volta migliaia di persone più o meno affini, solidali, consapevoli, hanno deciso di svoltare, di abbandonare uno scenario che non andava abbandonato, di andarsi a fare una festicciola al Circo Massimo. Per cui la riflessione che vorremmo dare, appunto, perché non è semplicemente noi con la censura non ci abbiamo un cazzo a che vedere, è semplicemente ragionare su parametri di organizzazione di un certo tipo basata sull'azione individuale e sulla sorpresa. il fatto è sorpresa. Il fatto è che certa gente era sparita, e, no, almeno a Napoli, almeno uno parla di Napoli perché noi siamo qua e quindi sappiamo bene la situazione. Certa gente era sparita, un certo movimento era sparito, faceva le sue cose legali a contatto con l'istituzione, e ora con questa chiamata si è rimessa, si voleva rimettere in gioco. Lo sbaglio dove sta? Non è tanto lo sbaglio da parte dei disobbedienti, perché i disobbedienti l'hanno fatto con il loro scopo politico. Lo sbaglio è di chi è andato là a manifestare attivamente, ed è, sono forme diciamo di lotta che comunque sono sempre stati contro un certo tipo di politica di disobbedienti, totalmente contro, tant'è che molto spesso sono avvenute risse in tutta Italia, qui a Napoli ne sappiamo qualcosa. E quindi cioè, la domanda è: perché andare a dar man forte alla visibilità di un determinato soggetto politico? La seconda domanda è nella consapevolezza, nel saper stare per strada, perché poi si sa, anche stare per strada in queste situazioni non si fanno scelte, diciamo, proprie, autonome, che portano a delle conseguenze anche che svelano tutto il circo. E poi, cioè, vabbè, tornando sul discorso con cui si era iniziato, il fatto che io a Napoli, girando, non ho mai visto un manifesto, non ho mai letto un volantino sulla BCE. Ora, all'improvviso, il veri controvertice. Allora, io voglio capire che i disobbedienti, in primis, che hanno organizzato il corteo, parlassero di BCE non 365 giorni all'anno, ma almeno un mese all'anno parlassero di BCE. Non lo fanno, non lo fanno, però ora hanno approfittato di questo, e questo doveva essere capito da tanti compagni che alla fine che sono andati a fare numero in un loro corteo, numeri che poi loro rivendicheranno, perché sappiamo perché hanno messo a rischio le proprie individualità, le proprie pratiche, in maniera che sostanzialmente può essere, vabbè, per me partecipare, può essere... a partecipare al corteo dei disobbedienti non è niente di meno che partecipare a un corteo di un partito politico. Il problema è che quando si è partecipato in altre situazioni abbiamo messo in crisi e portato le contraddizioni laddove si partecipava, stavolta è stato più difficile, un po' sicuramente per delle condizioni oggettive del sì, cazzo, vabbè, in cui ci si è trovati lì. Fortunatamente non molti hanno accettato l'invito. Vabbè, questa era la piccola discussione, una piccola discussione, riflessione, delle riflessioni sul corteo contro il vertice della BCE avvenuto giovedì scorso a Napoli. Come dicevamo anche l'anno scorso, le nostre riflessioni sono le nostre, chi si offende è un fedente. Ora ci ascoltiamo un brano di Syndrome Defect, Fashion Victim, e poi dopo si torna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Piasecki. We see it, we love it, tell us what we need. We need it, we want it, to make ourselves complete. We see it, we love it, tell us what we need. That's what we need. to make ourselves complete. We see it, we love it, tell us what we need. We need it, we want it, to make ourselves complete. We see it, we love it, tell us what we need. Mentre beveva e parlava coi compagni o ascoltava i loro scherzi, Baran aveva sempre il pensiero rivolto a Pavka. La passione per quella ragazza pareva ingigantirsi in lui, affiorando agli oscuri recessi della sua anima. Una passione che non aveva mai provato prima di allora, anche se ne aveva avuto molte di amanti. C'erano state tra esse delle cagne che non avevano mirato che al denaro, e c'erano state anche delle altre disinteressate e sincere. Egli le aveva possedute brutalmente o con indifferenza, spesso disprezzandole, ma non ne aveva mai amata veramente nessuna. Quando sentiva parlare di amori ardenti, di passioni fatali e di gente che era impazzita o si era avvelenata per un amore non corrisposto, provava sempre un grande stupore e sulle sue labbra spuntava un sorriso di compatimento. Considerava simili cose come stupidaggini, esagerazioni e manifestazioni di isterismo. Ed ecco che ora era toccata a lui. Il morbo si era dichiarato improvviso e implacabile come una febbre gialla. Kazik Moretzky, che conosceva Baran da molti anni, si accorse che aveva un'aria distratta e assente. «Beh, perché hai quella faccia da limone spremuto?» «Ma niente, ho solo un po' di mal di testa», rispose Baran. «Ah, anch'io, sai, io non sto molto bene perché ho patito troppa fame nella prigione di Vilna». Che poi sarebbe Vilnius. «Credevo di doverci crepare lì dentro. Quando mi svesto sembro ancora uno scheletro». «Beh, ti rifarai qui a Minsk», buttò attraverso la tavola Filippo. «Già, ti rifarai come il diavolo a forza di mangiare maggiolini senza condimento», interloquì Gian Ventedoro. Deformando il suo volto gommoso e tracciando segni col dito nell'aria, il professore raccontava a Glista un fattaccio andatogli male. «Tu», mi dice lui, «sei un recidivo e perciò sarai denunciato alla pubblica per essere tenuto d'occhio». E io gli dico: «Non sarà così, indiscreto signore». Glista fece scricchiolare le dita. «Beh, volevano fartela stavolta, eh?» Filippo il Calvo, che da un po' di tempo ascoltava la loro conversazione senza capirla, sbuffò con dispetto. «E parlano come un gambero con una tacchina». Scese la sera e la stanza si riempì d'ombra. Cipa accese la lampada appesa con un fil di ferro al soffitto. Baran, Kasik, Gian e Filippo stavano consigliandosi su un certo colpo che era in programma prossimamente. Era Filippo che aveva trovato il lavoro da girare. Si trattava della cooperativa delle forze dell'ordine, appena aperta in via Kolomenska. Egli si era accorto da tempo che il locale era stato sgombrato e veniva rimesso a nuovo. Ogni tanto, passandoci davanti, sorvegliava il progresso dei lavori. Quando il locale fu pronto, venne la volta di sistemarlo al negozio. E i negozi nuovi sono una vera cuccagna per i ladri, perché di solito sono mal sorvegliati. Filippo si mostrò particolarmente entusiasta di quell'impresa e quando venne a sapere che il locale era destinato alla cooperativa della polizia, si recò sempre più spesso in via Kolomenska, dove osservava senza farsi accorgere tutti quei preparativi o interrogava abilmente gli operai, facendoli cantare su tutto ciò che potesse interessarlo. Magari si dava l'aria di voler lui stesso affittare un locale per aprirvi un negozio, o invece si spacciava per rappresentare un articolo di cancelleria che desiderava collocare la propria merce. Un'insegna nuova fiammante apparve sulla porta d'entrata. Dentro tutto era pronto e venne il giorno in cui giunsero perfino le prime merci, e cioè sale, caffè, miglio, fiocchi d'avena e cose simili. Filippo informò i soci circa la possibilità di fare assieme un colpo nella cooperativa, ma dato lo scarso valore delle merci giunte fino a quel momento fu presa la decisione di attendere ancora. E infatti, qualche giorno dopo, giunse alla cooperativa della polizia, che aveva già cominciato a funzionare, una considerevole partita di stoffe e l'indomani un'altra partita, sempre essa considerevole, di scarpe di cuoio e di cuoio per suole. Allora la combriccola ritenne che fosse giunto il momento di agire e decise di mettere subito la bottega in liquidazione. Ora stavano appunto concentrando l'impresa in tutti i suoi dettagli. Baran ascoltava senza prendere parte al conciliabolo, sebbene sapesse che il suo parere era altamente apprezzato dai colleghi, ma seguiva con attenzione i loro discorsi perché non era bene al corrente della faccenda e di cui aveva appena sentito parlare. Gian proponeva di far fuori il negozio di sera subito dopo la chiusura della cooperativa e Filippo condivideva la sua opinione, ma Kasik invece non era troppo entusiasta di questo progetto e a un certo punto egli si rivolse a Baran per sentirne appunto il parere e quindi disse: «E tu che ne pensi?» Baran posò la mano sul tavolo e disse lentamente, scandendo le parole: «Dobbiamo fare un completo ripulisti senza lasciar nulla. Bisogna che si rendano conto di che stoffa siamo noi, così abbasseranno la cresta. Secondo me è meglio lavorare di giorno durante l'intervallo del mezzogiorno, arrivare con un carro, caricare tutto e via dal ricettatore. In 2 ore si può far benissimo tutto, perfino riportare il carro dove sarà stato preso». Tutti tacquero e si misero a riflettere. Erano interdetti dalla semplicità del piano esposto da Baran e in un baleno compresero che questo era il modo migliore e più profittevole e più sicuro di condurre in porto l'impresa, che nello stesso tempo sarebbe stata più clamorosa. Venne dunque discusso il da farsi sulla base di questo nuovo progetto. L'unico ostacolo era dato dalla difficoltà di trovare un carro, ma Baran disse che se ne sarebbe occupato lui stesso. Voleva sistemare la faccenda con l'aiuto di Stasci il cocchiere, prendendo in prestito da Sklamgo il carro con un pretesto plausibile. Allora i ladri decisero dunque di agire non appena Baran avesse trovato il carro. Il giorno dopo si sarebbero di nuovo riuniti per gli ultimi accordi. Da qualche tasca saltò fuori del denaro per un'altra bottiglia di vodka. Del resto Cipa faceva volentieri credito ai suoi clienti. Sapeva che dei ladri di professione poteva fidarsi ad occhi chiusi e l'atmosfera si stava riscaldando a poco e sempre eccitante era la prospettiva di un lavoro interessante e lucroso. E quindi ci sentiremo il prossimo lunedì alla prossima diretta d'azione. La prossima diretta è venerdì, però con la lettura è lunedì prossimo, con in cui nessuno ci sa, vanno a 013 e non vi perderete la cronaca di un furto e la storia di un paio di scarpe. Appuntamento a venerdì con la diretta d'azione dalla cameretta con l'aria viziata. Un saluto a tutti voi. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Informazioni, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.